Disco Della Senza Banana. Voglio vivere senza mai cercare di essere perfetto e non pensare tanto che poi come no non pensare affatto. Voglio vivere, voglio credere alle favole, sbagliare tutto e non obbedire mai. Quante volte hai detto sì dicendo no a te stesso. Potevamo fare la cosa più strana del momento e l'abbiamo fatta. Dopo aver intervistato Bebo la scorsa settimana per queste 5 uscite dello stato sociale, una per ogni componente, sono molto molto molto felice di avere in collegamento telefonico con noi su 103.1 anche Checco, quindi benvenuto Checco. Ciao ragazzi, grazie. Tra l'altro tu sei di essere in onda. E sei anche vicinissimo, cioè noi stiamo facendo queste interviste e tu sei comunque a Bologna. A un quartiere di distanza praticamente, sì. Siamo a un quartiere di distanza per parlare di questo progetto che è veramente molto bello. Il tuo appunto è stato appena pubblicato, anche il tuo EP, e c'è una canzone che a me piace molto, che è anche quella che ascolteremo tra pochissimo, che è Barca, questa voglia di leggerezza fatta di mattoni, la chiameremo Casa. Sicuramente un brano anche scritto in un periodo storico molto complicato. In realtà quel brano lì in particolare è stato scritto durante il lockdown e parla della mia scelta di diventare padre, ma in chiave un po' più astratta, diciamo. In generale parla un po' più del momento in cui per fare un salto, no? Il salto è proprio è la decisione che ti porta a fare una cosa senza più ritornare indietro. Sì, è la canzone che descrive un po' quell'istante lì e in un momento anche di incertezze, diciamo, senza un futuro chiaro davanti. Ecco, sì, era un po' faro che cercavo all'interno di un momento un po' nebuloso come era quello di aprile-maggio, come comunque adesso non è che si sia configurato tutta questa chiarezza, diciamo, però per il momento abbiamo avuto almeno il tempo di gestirla e digerirla un attimo, ecco. Sì, e soprattutto magari anche di cercare di trovare un modo comunque per andare avanti. Noi spesso all'interno del nostro Fujiko Factory portiamo avanti molte rubriche che vogliono urlare a gran voce che la musica c'è e deve continuare, quindi il vostro progetto forse più di tanti altri a gran voce proprio dice questo, cioè noi siamo 5, facciamo uscire 5 progetti tra l'altro prima di partecipare a Sanremo e... Sì, guarda, in realtà è una chiave di lettura anche questa, nel senso che sentivamo un po' l'esigenza di comunicare a tutto tondo il fatto che c'eravamo, che è il discografico, in qualche modo un po' chivetusti. Adesso pare che la musica sia dagli album, non esistono più i concept album, ancora meno, tutti pubblicano singoli e raffica nel tentativo di catalizzare alla fine i click e gli ascolti sempre solo su un singolo brano, che vabbè, cioè non c'è niente di male, è il modo in cui si fanno le cose oggi, che va benissimo, però ecco, noi siamo un po' abituati a un vecchio modo di dialogare, di conversare con il pubblico di ascoltatori, no? E abbiamo un po' la necessità di avere spazio, almeno una ventina di minuti, per comunicare appieno, ecco, la roba che volevamo dire, il messaggio che volevamo dare. E questo tipo di progetto adattava alla perfezione a questa nostra necessità umana, cioè diciamo che sì, era appunto una necessità che arrivava in primis da alcuni di noi, cioè alcuni di noi avevano la necessità di indagare meglio le proprie estetiche, le proprie sonorità, le proprie poetiche, anche al netto del compromesso che per costruzione c'è all'interno del collettivo. Per stare insieme si fanno dei compromessi, è anche un po' la cosa che dicevo in barca, questa voglia leggerezza fatta di mattoni, la chiameremo casa, che parla un po' del denso di fatica che si ha alle volte a fare proprio delle cose importanti come il saper stare insieme anche tra amici. C'è bisogno di lavoro continuo per rinnovare le amicizie, per rinnovare le relazioni, per riscoprirsi alle volte che anche amici, no? Amici in qualche modo amanti della propria relazione, amanti dell'amicizia, di quello con cui la stai stringendo. Che e poi è un progetto... po' il prendersi cura, cioè quando uno vuole creare la reciprocità con l'altro ci deve poi essere il prendersi cura. Sì, e lo svelarsi anche. Quindi il progetto ha anche questo senso intrinseco qui, cioè avevamo proprio bisogno di raccontarci nella nostra totalità con 5 brani a testa, diciamo che era la formula che ci sembrava la più quadrata, 5 più 5, che ci dava la possibilità di raccontare noi stessi, quindi di fare un viaggio all'interno di noi stessi, raccontarci agli altri, a quelli del collettivo, ma anche all'esterno, raccontare la complessità di quello che siamo tutti e 5 insieme. Era un po' difficile ultimamente da far uscire cosa, dato che comunque l'abbiamo sempre portato avanti negli anni, ma nell'ultimo periodo con l'ovvia sovraesposizione di Lodo per via di X Factor e di tutte le altre attività TV che ha fatto, ecco, la situazione era un po' risbilanciata. Noi avevamo la voglia di comunicare cosa che in realtà è vera, cioè che siamo compatti, siamo 5 teste e facciamo le cose, anche se diverse, insieme. E questa è questa voglia di leggerezza che è fatta di mattoni, è faticosa, però è casa, è il nostro modo di concepire il collettivo. E infatti il vostro collettivo, e nello specifico il tuo EP appena uscito, è proprio, come stavi giustamente raccontando, un'indagine intima e personale, appunto per scoprirsi ma anche riscoprirsi, quindi essere proprio onesti. Quindi è un disco veramente molto sentito e un disco onesto, dove però appunto poi collaborate anche tra voi. Sì, sì, assolutamente. Tutti i testi sono comunque firmati dallo Stato Sociale, sono firmati a 10 mani in tutti i dischi di tutti e 5, quindi cioè, anche forse un po' per evitare invidio, competizione di sorta, no? Quindi abbiamo già messo tutto in chiaro, è tutto diviso, equamente firmato, e questa è una cosa molto bella. Sì, l'operazione di onestà era un po' la chiave per questo lavoro fatto bene. Se non c'era quello, rimaneva solo un po', come dire, una trovata commerciale, anche poco furba, se vuoi. Esatto, perché... sì. Perché in questo momento inondare di 25 brani il mercato discografico, che è già saturo, non era una gran scelta. Però la cosa che volevamo comunicare era un po', cioè la posta in francese, un po' fare il cazzo che ci pare, ecco, senza stare ma infatti... dietro alle regole del mercato o le regole delle piattaforme streaming. Chi se ne frega, insomma, dai, andiamo a fare le cose da amici e facciamole, divertiamoci. Ma infatti è un francesismo che direi che rappresenta appieno poi il progetto artistico che voi siete, come appunto come Stato Sociale. È quello un po' con cui raccontavo e parlavo anche con Bebo nella scorsa intervista, che appunto proprio a livello discografico uscire con 5 dischi prima di Sanremo, di solito tutti gli altri pubblicheranno dal 5 marzo in poi i loro progetti, quindi siete proprio totalmente andati controcorrente, ma resto dell'idea che è la scelta giusta. Ma non lo so, guarda, se nessuno lo fa forse ci dovremmo fare delle domande. Ma chissà, insomma, senza il tentativo non c'è neanche scoperta. Quindi noi ogni tanto abbiamo proprio voglia di scardinare le cose, anche per vedere come sono fatte dentro. Per esempio i bambini che rompono i giochi, sì, cioè li aprono per capire che cosa c'è dentro, ecco, noi, insomma, siamo fatti un po' così, siamo un po' dei giocherelloni delle volte. Ma questo ci piace, la cosa che in realtà ci fa venire voglia ancora di più di sperimentare con i contenitori, con i linguaggi, con le grammatiche diverse che esistono, no, all'interno dell'arte, ed è stimolante. Ecco, io non riesco a pensare al progetto Stato Sociale o comunque a una qualsiasi cosa che io debba fare come sempre la stessa, dentro degli stilemi precisi, dentro delle estetiche già fatte, delimitate. Cavolo, andavo a fare il geometra, no? Beh, anche perché poi appunto è la bellezza dell'arte e della musica e soprattutto di fare musica insieme. Spesso io mi sono chiesta, seguendovi da anni, come cinque teste possono lavorare per tanti anni insieme e insomma poi anche vedervi sul palco si vede l'amicizia, la stima reciproca, anche poi appunto se negli anni poi avete anche poi scelto percorsi magari diversi, avete fatto tante cose da soli ma poi comunque rimanendo sempre lo stato sociale. Sì, sì, beh, questa come ti dicevo prima è la componente di fatica, nel senso in ogni bella storia che si meriti questo titolo, la parte idilliaca è sempre minima in realtà, dietro c'è tanto lavoro, c'è tanto scatto, c'è tanta voglia di stare insieme da amici, c'è tanta voglia di parlare, c'è tanta voglia di incazzarsi, di perdonarsi, si va avanti in maniera umana come è giusto fare quando ci sono dei contrasti, è bello risolverli, è bello evolversi, no? Andare a cambiare in meglio sempre. E questo, ecco, il fatto che noi abbiamo deciso comunque di essere in questo modo insieme è un po' un punto di non ritorno, è un po' una sorta di promessa fatta per sempre. Io non riesco a immaginare lo stato sociale senza uno di noi. È giusto avere le proprie anche velleità, se vuoi, ognuno ha il progetto artistico, chi ha fatto fumetti, chi libri, chi fa o produzioni o teatro, ecco, però si rimane sempre sotto lo stesso cappello, perché abbiamo capito in qualche modo che il personalismo, l'egotismo, l'individualismo vanno avanti ma fino a un certo punto, poi comunque hai bisogno del confronto, se no dopo diventa tutto un mero rapporto di mercificazione di se stessi. Invece quando c'è dentro un rapporto netto e sincero con la gente con cui lavori, secondo me è il paradiso, cioè è il modo in cui si dovrebbe lavorare. Che poi è anche un po', sentendo queste parole mi viene in mente un po' anche la nostra esperienza qui a Radio Città Fujiko, il fare radio insieme, quindi collaborare insieme, poi ci deve essere poi questo obiettivo in comune. Tra l'altro poi leggendo anche proprio la tracklist del tuo disco, quindi Dorelan, Vivere, Perso, Luce, oltre appunto Barca, che ne abbiamo parlato precedentemente, appunto canzoni scritte, firmate tutti insieme, ad esempio anche Perso, sembra un po' il discorso che stai facendo ora, mi viene in mente dopo averla ascoltata. Guarda, Perso in particolare è bello che lo citi perché è un brano che ho scritto proprio insieme a Bebo, si partiva da un suo testo originale e poi, dato che mi piaceva molto, lo sentivo molto, gli ho chiesto se ci potevo usarlo per la musica. Mi sono perso casa, dicendo che la vita è tutta qua. Tra qualche sogno, un po' d'amore e la felicità. Lascia stare, che non riesco a respirare. Le allarmi che risuonano come a volermi richiamare. Prendermi fare in fretta, te ne devi proprio andare. Andare sì, ma dove? Che vorrei solo sprofondare. Poche leghe sotto il mare e mi viene voglia di fumare. Basta un'ora o poco più. Lascia stare e vienimi a cercare. Tra l'angolo di un fiume e una canzone da cantare. Cerco speranza da poter barattare con qualche foglio di giornale. Ed un bacio un po' volgare. E dirmi non è male. Poter ricominciare. Poter dirti andiamo al mare. Ho imparato a galleggiare. Basta un'ora o poco più. Mi sono perso verso casa, dicendo che la vita, parla un po', la vita del... è tutta qua. Sì, è un po' una summa, diciamo, di tutti i discorsi che ci siamo fatti. È il momento in cui ti perdi perché non sei più esattamente chi sei, ma nel senso, ho fatto questa scelta per me, l'ho fatta perché me l'hanno detto, l'ho fatto perché la società mi impone. Ad esempio, molto banalmente, mettere su famiglia, comprare una casa e trovare un lavoro stabile è veramente la cosa che voglio, o è una cosa che mi hanno detto che si fa così e allora lo devo fare, no? Ok? Ecco, per tutti i discorsi che abbiamo fatto prima, sia sulla discografica, cioè tentare di fare una cosa diversa perché secondo me è la strada, sia tentare di avere una storia collettiva, sebbene sembra apparentemente che qualcuno ne venga limitato o comunque che non si riesca bene ad emergere nell'individualità all'interno di un processo troppo collettivo, beh, non è detto, si può sperimentare, si può andare avanti, si può trovare un compromesso nel compromesso, si può trovare la libertà anche all'interno di una cosa che uno pensa sia limitante, ma poi in realtà scopri essere grande fonte di risorse. Perché io molti pezzi dell'EP, guardo proprio per darti il numero 3 su 5, se non ci fossero stati gli altri, non li avrei scritti in quella forma, perché DeLorean è un brano che ho scritto con Albi, Libere è un brano che ho scritto con Lodo e Perso è un brano che ho scritto con Bebo. Primo e l'ultimo li ho scritti in periodo di lockdown, in un momento in cui non c'era molto fuori e avevo un punto di vista molto molto ombelicale e quindi insomma li ho dovuti scrivere un po' più da solo, però in generale il disco è così proprio perché siamo noi cinque. Io al fine ho deciso solo che vestito dovevano indossare i brani e che tipo di interpretazione dovevano avere, però il succo, la sostanza, siamo noi cinque. Siete voi cinque, infatti hai citato giustamente Vivere, la canzone scritta con Lodo, e volevo proprio arrivare a quella, perché poi quella canzone è un bellissimo manifesto proprio per dire anche insieme, cioè vaffanculo, noi siamo questo, quindi per accettare quello che noi siamo, io sono così qui e ora, quindi è un messaggio molto forte e bello. Hai centrato il punto senza che tu dicessi, beh, quindi sono come dire che le canzoni funzionano. No, esattamente quello, esattamente la cosa che dici, un vaffanculo alla fine, anche non troppo educato, per dire guarda, ci posso fare niente, nella mia onestà e nel mio modo di essere, io sono questo, noi siamo questi, se non ti piace, oh, lasciami vivere, cioè, lasciami andare, lasciami essere in questo modo. Sì, è un po' un inno contro le imposizioni, contro i confini che ci mettiamo, ma così anche come DeLorean, il secondo brano che ho scritto con Albi, parla un po' dei paletti, dei confini, delle... Se penso che c'è gente che paga per andare in palestra, per le rate dell'ascensore, dell'assicurazione della moto con cui va in palestra, io sto male. Se penso alle cazzate che scrivi per sentirti bene, e se le dicevi al bar volavano schiaffi e poi offrivi da bere, io sto male. Perché ho dimenticato nel frattempo come si sta bene, e tutto il giorno penso a quale sia il senso di restare qui. E allora andiamo un po' più in là, andiamo con la DeLorean, che senza lì delle ansie, degli obblighi che la società stessa, ma anche noi ci mettiamo nel momento in cui decidiamo di vivere all'interno di un sistema capitalista, ma non perché siamo stronzi noi, è che comunque è una cosa che in cui ci dobbiamo vivere dentro, o andiamo a fare gli eremiti o ci viviamo dentro e cerchiamo di gestire lo struggle di viverci dentro, ok? Come i social sì, sono uno strumento di lavoro importantissimo oggi, però devi stare attento che i social non gestiscano la tua vita, ma sia tu a gestire i social, ok? È un po' tutto anche insomma, il discorso sull'apparire, sull'apparenza, il fatto che effettivamente abbiamo così tante cose che alla fine le cose che possediamo ci possiedono in qualche modo, perché ci devi stare dietro. Devi stare dietro all'appuntamento della palestra, devi stare dietro all'ascensore, all'assicurazione della moto, tutta una serie di cose che ti mettono ansia, quando invece forse una happy decrescita sarebbe una risposta che tanto meno, in medio-lungo termine ci calmerebbe un po'. Uno dice, beh, dai, faccio a meno di molte cose, però almeno sto tranquillo, ecco. Che, e poi tutto questo mi sta venendo in mente proprio l'immagine del trailer che tu hai pubblicato sui tuoi social. Tu non pubblichi in realtà molto sui social, ad esempio Lodo o Bebo pubblicano tantissimo sui social, in confronto tu pochissimo, però poi sei ritornato con questo trailer che devo dire per ora è il più divertente. Sono molto curiosa di guardare e ascoltare anche i prossimi tre, però rappresenta forse anche proprio a livello di immagine, di potenza, proprio tutto questo discorso. Sì, guarda, allora io, per tornare al discorso di social, essendo di formazione un matematico informatico, tipo guardo abbastanza con sospetto la tecnologia, ma da sempre questa cosa, quindi sì, sono un po' più limitato nell'esprimermi online, ma anche per, tra virgolette, c'è di gestione sana che in qualche modo mi impongo, ma non nel senso come imposizione, nel senso che mi sono spiegato un po' di cose del mio modo anche di essere in qualche modo ansioso. Adesso la chiamano la paura del missing out, fear of missing out, no? Che è quell'ansia che ti viene quando tu guardi tipo le storie dei tuoi amici che si divertono e tu dici, cavolo, sono fuori dal party più fico della storia, com'è che non mi diverto? Non sono abbastanza cool? E allora, cioè, o ci convivi, nel senso che impari a gestire il tuo modo di approcciare al social in maniera conforme a te, oppure ci impazzisci dietro, no? Ecco, il mio modo di gestire la cosa è starne relativamente fuori, ma usarlo come strumento di lavoro, esattamente per come io lo vedo e per come è stato, secondo me, progettato. Trailer è stata un'invenzione, diciamo, dell'ufficio stampa, nel senso che ci hanno chiesto un trailer a testa, un teaser a testa, e la cosa che mi è venuta più spontanea da fare è quella di mettere in contrapposizione quello che uno si immagina, no? Della vita da rockstar, tra virgolette. Sì. Esatto, da artista, con le cose che di base poi faccio quotidianamente, quindi quasi nulla di interessante. Vabbè, se posso fare un credito, il video ovviamente è stato scritto e interpretato da me, è stato diretto da Marco Santi, però l'idea, il format è invece di un artista che tengo sempre a nominare in quanto è una specie di mio faro, che si chiama Gioacchino Turù, e aveva già fatto format di questo tipo anche per noi proprio. Cioè, è stato una volta nel 2014 e ho detto, senti, ma mi fai un teaser esattamente come quelli che fai per Christian Parigi, che è un personaggio suo, e vi invito tutti ad andare a vedere su YouTube il suo format. Anche perché appunto è un'arte anche quella in realtà di fare i trailer, e forse spesso non ci rendiamo conto di tutta l'idea che ci sta dietro. Cioè, ovviamente ci sei tu, c'è la tua storia, racconti il tuo disco, ma poi c'è il lavoro e la collaborazione di tante persone per poi appunto dare forse anche un'immagine al disco, una storia raccontata guardandoti in faccia e vedendo la tua casa, quello che fai. Quindi poi sono un insieme di cose che poi è l'arte in sé. Ah sì, dai, alla fine insomma dare un vestito più completo alle cose è anche un po' il nostro lavoro, nel senso, ok, ci sono le idee dietro, poi alle idee gli devi insomma riuscire a trovare una spiegazione a parole che renda bene, se fai le canzoni ci devi insomma riuscire a fare un vestito che renda bene, e in più poi copertina, e in più c'è il teaser, il videoclip, quel che è. E poi noi avevamo un progetto ancora più difficile, perché in qualche modo dovevamo riuscire a coordinare le cinque uscite, sia a livello estetico, cioè proprio a livello di immagine, che di promo, no? Quindi c'è proprio tutto un altro lavoro di coordinamento tra noi cinque, che è ancora più difficile. Non te lo sto a raccontare, che ognuno aveva idee completamente diverse, però alla fine insomma siamo riusciti a trovare una quadra all'interno di tutto il processo, e sono piuttosto felice, guarda, piuttosto. Come è uscito tutta. Sì. No, cioè è stato un po' stressante, dico, perché insomma abbiamo corso abbastanza che far uscire una serie di cinque dischi, quindi insomma appoggiarsi al concetto di serialità in un mese, che si chiude alla fine con la partecipazione a Sanremo, non è cosa facile. Impegnativo, perché, sicuramente. Sì, hai un po' di cose da tenere sott'occhio, però insomma ce la stiamo facendo, per quello che ti dicevo piuttosto, ma al netto di questo sono molto felice. E siamo in realtà anche noi molto felici di seguire tutte e cinque le uscite. Infatti in realtà noi oggi ascoltiamo la tua intervista, ascoltiamo il tuo disco, ma poi in realtà tra pochissimo, sempre sui 103.1, avremo anche Carota, per poi insomma chiudere con Albi e poi con Lodo. Quindi le seguiremo tutte e cinque, come poi vi seguiremo a Sanremo, perché poi la chiusura di questo progetto è arrivare a Sanremo e poi ci sarà il dopo, quindi non vediamo l'ora anche di vedervi a Sanremo. Noi parliamo sempre di Sanremo perché vuoi o non vuoi è comunque, sarà un grande, non so, sarà un modo comunque per far vedere che la musica sta continuando, quindi nonostante insomma un po' tutto quello che si sta dicendo in questo mese, Sanremo sì, Sanremo no, pubblico sì, pubblico no, però in un qualche modo è sicuramente un messaggio molto forte che arriverà insomma a chi guarderà Sanremo. Beh sì, sicuramente ci dà il segnale che non siamo morti, cioè che le cose stanno andando avanti in qualche modo. Ecco, sfruttare Sanremo sarebbe stato bello come banco di prova, laboratorio, guida, che avrebbero funzionato, non so, un po' come vela, no? Per far ripartire un po' tutto, anche a breve distanza, sarebbe stato molto bello e avrebbe almeno evitato la domanda che io adesso mi faccio. Va bene, ok, Sanremo lo facciamo senza pubblico, ma poi che cosa facciamo? Poi cosa succede, sì. Quando è che ripartiamo realmente? Quando è che ci impegniamo realmente a trovare delle soluzioni concrete che facciano almeno ripartire a ragionare i cervelli della gente che si occupa di organizzare eventi, la cultura, lo spettacolo, insomma tutto quanto quello che ci gira intorno e che vede la partecipazione di un pubblico, no? Sì. Cioè, quando è che ritorniamo a macinare, almeno impostare i lavori, ecco. Sì, almeno l'idea, perché al momento non c'è neanche in cantiere un'idea, esatto, cioè i concerti sono da un anno completamente rimandati, ora forse qualcuno cerca di programmarli per ottobre dell'anno prossimo, ma al momento non ci sono risposte e lo Stato non si pone neanche il problema, quindi effettivamente quello che stiamo facendo anche noi da mesi all'interno del nostro Fujiko Factory è dare proprio voce a tutte le persone che lavorano con la musica, e tanti probabilmente non sono neanche tenuti in considerazione, si pensa solo che magari è la band sul palco, quando poi in realtà c'è un mondo dietro di lavoratori che non hanno in questo momento voce. Esatto, sì sì, il discorso è un po' questo e non c'è molto altro da aggiungere, solo che ma non sono neanche rammaricato, cioè nel senso, alla fine lungi da me fare il virologo di turno, perché non ho le competenze ovviamente, esatto, e mi fido ciecamente del comitato tecnico scientifico e di come si è espresso, però ecco, imbastire un tavolo di lavoro concreto che si occupi proprio di eventi culturali dal vivo, io non dico un ministero a sé stante, però un tavolo di lavoro che serva per dare risposte concrete, o almeno cominciarle a dare da domani, da dopodomani, perché è una cosa che serve, non possiamo più restare fermi in questo modo, ma ne va sia della nostra salute mentale che sociale, perché ognuno ha bisogno di coltivare i rapporti umani, no? E anche comunque diciamo le proprie passioni, ad esempio una delle mie passioni sì, più grandi è andare ai concerti, sono da più di un anno che mi tolgono la possibilità di farlo e sembra che nessuno si ponga il problema. Il lavoro per qualcun altro, ma anche la possibilità di uscire di casa e fare qualcosa in generale è molto importante, poi che questo ovviamente significhi lavoro e sostentamento per molti lavoratori dello spettacolo è vero, e altri vabbè hanno la passione del teatro, della musica dal vivo, ovviamente sì, io spero che ne potremo rigodere di a presto, non so augurarmi altro che questo. Esatto, quello che ci auguriamo anche al nostro, all'interno del nostro Fujiko Factory con la nostra radiolina del cuore. Io ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata dove effettivamente abbiamo raccontato per bene tutti i brani, il progetto, e quindi io direi che mi sembra la cosa più giusta salutarci ascoltando Barca. Grazie mille, grazie di cuore e in bocca al lupo per tutto, e poi noi ci risentiamo anche quando sentiremo su 103.1 Carota. Viva, dai, a presto. A presto, ciao. Un foglio bianco per cambiare, un cerchio da disegnare, da riempire di cazzate. Mi ci vorrei.